Ieri abbiamo deciso assieme ad altre realtà sociali e politiche di lanciare questa manifestazione per ricordare il nostro compagno Vole che ci ha lasciato recentemente, per trasformare un momento di dolore che sarebbe stato il suo 40° compleanno, un momento di rabbia collettiva, per portare il tema che non abbiamo mai abbandonato della questione delle morti sul lavoro. Viviamo in un sistema che restituisce sfruttamento, morte nell'ambito del mondo del lavoro sempre più precario e sottopagato. Riteniamo che ci sia una vera guerra dei lavoratori e lavoratrici, tante rischiano la mattina e si svegliano e non sanno se tornano a casa la sera, come è successo anche al nostro compagno Bole. È una piaga in tutto il paese. Come sindacato, insieme alle realtà sociali e politiche, riteniamo che vada invertita questa rotta, vada ripristinata una condizione di sicurezza nel mondo del lavoro, che è sicurezza sia sociale, quindi basta precarietà, appalti, subappalti, co-co-co e altre forme di sfruttamento, e sicurezza che riguarda le condizioni fisiche di come si lavora, di come si va a lavorare. Perciò sarà una grande manifestazione con concentramento alle 18 in piazza del Nettuno a Bologna per martedì 10 per Bole e per tutti e per tutte, intitolata infatti "Contro un sistema che uccide sul lavoro". Nel comunicato che avete mandato fate riferimento anche ai morti in alternanza scuola-lavoro, quindi... Sì, assolutamente, c'è un filo rosso di tragedie che collega il mondo della formazione col mondo del lavoro. Da anni, assieme alle realtà studentesche, ci opponiamo a questo modello dell'alternanza scuola-lavoro, che ha prodotto sì delle morti, ma produce anche una cultura del lavoro gratuito, dello sfruttamento, che si è inserita e sta permeando le scuole, perché dopo le scuole sono le università con i tirocini, gli stage non retribuiti, per cui c'è un modello formativo che a seconda un modello di sviluppo fatto di lavoro gratuito, di lavoro senza sicurezza, di lavoro esclusivamente a servizio del profitto e del privato e delle aziende. La manifestazione come si svolgerà martedì? Allora, ci sarà il concentramento alle 18 in piazza del Nettuno e poi ci sarà un lungo corteo che ci farà attraversare la città fino alla Bolognina, quindi invitiamo tutti e tutte a partecipare a questo momento di dolore, sicuramente di rabbia, ma di condivisione anche di una volontà di imporre un modello di sviluppo economico e sociale che restituisca progresso e non miseria e lutto.